Roberta Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. You describe a man, Antonio Meucci. Meucci is a very good Italian, but is also a terrible history, because Meucci is the real inventor of telephone. I'm sorry with the American people present here, but also the Congress of United States in 2001, I didn't remember, recognize the founder, the inventor of telephone is Antonio Meucci. Antonio Meucci is an incredible man, Florentine, who worked in the theater, in the most ancient theater of Europe, Teatro della Pergola. And he was a worker, so he invented the telephone to speaking about in the theater. A genius. E genius anche Matteo Renzi, non c'è che dire, cara ascoltatrice, cara ascoltatore, un grande comunicatore, riesce a farsi capire anche un inglese, diciamo, piuttosto maccheronico, con delle interpretazioni sue, delle pronunce molto originali. Comunque era Renzi, questo al Digital Venice di oggi, poi ne parleremo, diciamo, sotto altri aspetti. Giornata anche questa molto piena di notizie, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. È l'ultima settimana per questa stagione di Effetto Notte, quindi state attaccate alla radio, non perdete un solo minuto, anche perché vi racconterò, come vi dicevo, diverse cose. Approfondiremo non solo la parte europea, ma torneremo anche sul caso Iara, perché ci sono delle novità, anche se per lo più sono segretate, ma ci sarà uno dei legali di Massimo Giuseppe Bossetti, l'uomo accusato e arrestato per l'omicidio di Iara Gambirasio. E poi altre cose sui mondiali, perché stasera alle 22 c'è Brasile-Germania, partita molto attesa. Insomma, man mano snocciolerò e riusciremo a srotolare tutti i vari argomenti, però prima vi racconto, come sempre in sintesi, la giornata. Vi ricordo che ci sono sempre i due canali per la vostra partecipazione: i messaggi al 349 238 6666, oppure c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, e come sempre li potete fare i commenti a qualsiasi ora di qualsiasi giorno. Ecofin, sì agli obiettivi dell'Italia su crescita e riforme. Renzi chiede che gli investimenti digitali stiano fuori dal patto di stabilità. Borse Milano meno 2,69%, è la maglia nera oggi in Europa. Emilia Romagna, Errani condannato a un anno, si dimette da governatore. Difendo l'istituzione, dice, ma sono innocente. Medio Oriente, venti di guerra su Gaza, offensiva di Israele, almeno 14 morti. Hamas minaccia Tel Aviv, Netanyahu richiama i riservisti. E vedo che adesso, notizia dell'ultima ora, le sirene suonano per la prima volta a Gerusalemme. Quindi veramente una situazione di grande tensione, parleremo anche di questo. Poi immigrazione, a Milano il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. La Malmstrom a Radio 24 dice, non abbiamo mai abbandonato l'Italia. Il delitto di Iara, Bossetti, interrogato per 3 ore, ha spiegato perché il suo DNA era sugli indumenti della ragazzina, così dicono i suoi legali. Il processo Mediatrade, assolti e prescritti per Silvio Berlusconi e Confalonieri. Il maltempo al nord esonda il Seveso e Milano tra le polemiche sotto l'acqua, c'è l'allerta meteo, disagi anche in Piemonte e Veneto. E poi per i mondiali, nuova vita per Prandelli al Galatasaray. Agnelli lo critica pesantemente, lui replica, non sono scappato, ho ricevuto delle minacce. Poi stasera vi dicevo Brasile-Germania. Partiamo quindi dall'Ecofin di oggi, il vertice a Bruxelles dei ministri dell'economia e delle finanze dei paesi dell'Eurozona. Ecofin è stato presieduto per la prima volta dal ministro italiano Padoan. I ministri dell'economia dell'Unione Europea hanno confermato il sostegno agli obiettivi dell'Italia su crescita e riforme, concordando con l'uso della flessibilità già inserita nelle regole del patto. Sulla stessa linea il ministro dell'economia Padoan, sentiamolo. In un contesto di consolidamento fiscale, gli sforzi di aggiustamento prolungati, le riforme non sono sempre realizzate con la tempistica appropriata e con il livello di ambizione adeguato. I governi devono fronteggiare costi politici, sociali ed economici che si manifestano immediatamente, mentre i benefici in termini di crescita e occupazione sono differiti nel tempo. Si possono utilizzare a questo proposito gli spazi del patto di stabilità. Non si tratta di cambiare le regole, ma di usare quelle che già ci sono nel modo migliore. E come avete sentito dai titoli, oggi è stata una seduta ampiamente negativa per la Borsa di Milano, la peggiore nel vecchio continente, che ha lasciato sul terreno il 2,69%. Il listino milanese è stato appesantito dal comparto dei bancari. E in Europa, ritorniamo sul piano europeo, servono idee, non limitazioni, così ha detto Matteo Renzi da Venezia, dove è intervenuto al Digital Venice spiegando quale sia l'Europa che ha in mente. E sul fronte interno è tornato a parlare di riforme, il cui approdo in aula è confermato per domani. Piaccia o no, ha detto, noi le facciamo. Noi le riforme le facciamo. Le facciamo perché è giusto farlo, perché l'Italia torni ad essere leader, torni a creare posti di lavoro, torni a dare speranza. E piaccia o non piaccia a quelli che vogliono frenare, noi a casa il risultato lo portiamo. Lo portiamo sulla legge elettorale, lo portiamo sulla riforma costituzionale, lo portiamo sulla riforma del mercato del lavoro, lo portiamo sulla semplificazione della burocrazia, lo portiamo sullo snellimento delle procedure legate alla giustizia civile. L'Italia la cambiamo davvero, perché vogliamo troppo bene a questo paese per lasciarlo in mano a quelli che sanno dire soltanto no. E bisogna parlare oggi anche della condanna del presidente dell'Emilia-Romagna Errani, che si è dimesso. Si dimette anche se il PD gli chiede di restare. Il governatore Vasco Errani rassegna le dimissioni dopo che la sentenza di appello per terre emerse lo condanna ad un anno con la condizionale per falso ideologico. L'Emilia Romagna si prepara dunque a nuove elezioni. L'avvocato di Errani, Alessio Gamberini. Io ero e rimango convinto dell'innocenza di Vasco Errani, ero e rimango convinto che negli atti non c'era nulla che possa essergli rimproverato con una forma di istigazione a costruire un documento falso, e da questo punto di vista quindi rimango sconcertato di questo esito. Errani alla guida dell'Emilia Romagna da 3 mandati, la prima elezione avvenne nel 99, è stato anche commissario straordinario per la ricostruzione post terremoto. Si dichiara innocente, rivendica la sua onestà e ricorrerà in Cassazione. Secondo la procura, Errani aveva istigato 2 funzionari della regione a commettere falso sulla vicenda della COP, in cui è coinvolto anche il fratello. Dal PD gli chiedono di ripensarci, mentre per Beppe Grillo bisogna andare subito al voto. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E a proposito di questa notizia della condanna di Errani, vedo proprio di pochi istanti fa questa agenzia, Renzi chiama Errani vicinanza in rispetto però della magistratura. Questa è un'ulteriore novità su questa notizia. Adesso però parliamo del processo MediaTrade, della soluzione e prescrizione per Pier Silvio Berlusconi e Fedele Confalonieri, imputati a Milano appunto per il caso MediaTrade. La procura nei loro confronti aveva chiesto rispettivamente 3 anni e 2 mesi e 3 anni e 4 mesi di carcere, ma di questo poi parleremo dopo più nel dettaglio. Come parleremo anche con l'inviato del Sole 24 Ore di questa tensione altissima, vi dicevo, in Medio Oriente, in particolare nella striscia di Gaza, dove, dopo i raid aerei israeliani che hanno provocato morti e feriti, a Hamas che minaccia Israele. Abbiamo detto prima, insomma, delle sirene che stanno suonando in varie città israeliane. E adesso invece torniamo in Italia per il maltempo. Da Venezia a Milano, città in ginocchio oggi, esondato il fiume Seveso, come accade da anni a Milano. Questa volta ci sono stati danni e disagi più gravi. Strade e cantine allagate, case e negozi senza luce, alberi sradicati e fango dappertutto. Così si sono svegliati questa mattina i milanesi, o almeno chi vive nella zona più a nord della città, dopo l'esondazione del fiume Seveso, dovuta alla pioggia incessante. Dopo 8 ore, dalle 3 di notte alle 11 di mattina, l'acqua ha smesso di salire, ma ormai i danni erano evidenti, il traffico in tilt e 2.000 le persone senza luce. Ora la situazione sta tornando alla normalità. Ovviamente sono montate le polemiche, con accuse reciproche tra Comune e Regione Lombardia. Faremo tutto quanto possibile e necessario per risarcire i cittadini dei danni che hanno subito da questo evento, di cui non siamo stati informati, della cui criticità non siamo stati informati dalla Regione, ma che non può in nessun modo essere addebitata, come qualcuno ha ritenuto, da una mancata o scarsa manutenzione da parte del Comune di Milano. Così ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, mentre l'emergenza adesso si sta spostando sul fiume Lambro. Ma non è solo Milano in allerta meteo. In Lombardia, tra le province coinvolte, vi sono Monza e Brianza, Pavia, Brescia, a cui si aggiungono alcune aree nel Veneto, nel Torinese, la Liguria con Genova e la Toscana. Livia Zancaner, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una Milano quindi sotto l'acqua, in buona parte, proprio nel giorno dell'incontro informale dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sull'immigrazione. L'incontro si è svolto regolarmente, si è parlato anche di violenza sulle donne, ma in particolare, proprio vi dicevo, di immigrazione con la commissaria europea Malmström. Ma sentiamo Alfano che presiedeva questo vertice. Noi abbiamo solo ricevuto complimenti oggi per un'azione straordinaria che abbiamo fatto di salvataggio delle vite in mare. Noi abbiamo pagato con dei lutti altissimi la questione della migrazione, abbiamo fatto presente che Mare Nostrum è un'operazione che è a tempo e che l'Italia ha una grande capacità di accoglienza, ma non può accogliere tutti. E a proposito di immigrazione, mezz'ora fa era in corso nel porto di Taranto lo sbarco della nave Etna di 1.353 migranti salvati nei giorni scorsi nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum. Tra i 319 minori ci sono anche due neonati. Del contingente fanno parte inoltre 815 uomini e 219 donne, di cui 10 in stato di gravidanza. Sono tutti siriani, eritrei e dell'Africa centrale. Le strutture di accoglienza sono state messe a disposizione dal comune di Taranto in Puglia, dalla Caritas e dalle associazioni di volontariato. E parliamo di crisi. I consumi tornano indietro di 10 anni. La spesa media delle famiglie a 2.359 euro. Il 65% delle famiglie taglia sulla qualità del cibo e scende l'acquisto di carne. E sono dati poi purtroppo in coerenza con quelli dell'INPS sui pensionati. In Italia cresce la spesa pensionistica. Nel 2013 l'INPS ha erogato ogni mese oltre 21 milioni di assegni previdenziali, ma anche 15,8 milioni di prestazioni di natura assistenziale. La spesa lorda complessiva è stata di circa 266 miliardi di euro, con un incremento del 2,1% rispetto all'anno precedente. A rilevarlo è lo stesso istituto nel suo rapporto annuale. Il 20% della spesa annua complessiva è stato assorbito dai circa 6,8 milioni di pensionati, il 43% del totale, che hanno ricevuto una o più prestazioni il cui importo medio è inferiore ai 1.000 euro lordi al mese. Fra questi, 2 milioni e 100 mila non sono andati oltre i 500 euro al mese. Lo scorso anno il reddito pensionistico medio è stato di quasi 1.300 euro al mese. Le pensioni delle donne sono però un terzo più basse di quelle degli uomini, in media 1.081 euro contro i 1.587. Per l'INPS il 2013 si è chiuso con un saldo negativo di 9,9 miliardi dovuto in larga parte all'accorpamento dell'ex INPDAP, ma questo assicura l'istituto non mette a rischio la sostenibilità del sistema pensionistico. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo al caso Yara. Bossetti oggi è stato interrogato 3 ore dal PM. Nuovo esame del DNA hanno confermato al termine i legali Claudio Salvagni e Silvia Gazzetti, che vogliono appunto che si rifaccia il test del DNA. Di questo però parleremo direttamente appunto con uno dei due legali tra poco. Per quanto riguarda il calcio, nuova vita per Prandelli al Galatasaray, la squadra turca, con però polemiche con Agnelli che lo ha attaccato duramente. Poi parleremo anche di questo. E stasera alle 22 la notte calcistica è di Brasile-Germania. C'è un ascoltatore, vediamo se lo ritrovo, Riccardo, che dice: Roberta, non sopporto questa svolta calciofila di Radio 24, dagli meno spazio possibile, non ne posso più. Vabbè, siamo ai mondiali, non è che io ami particolarmente, però insomma, si parla di mondiali. E poi invece Erminio da Bergamo: Renzi che parla inglese, mio Dio che vergogna, in molte cose mi ricorda Berlusconi, ha fatto il temino su Meucci. L'abbiamo sentito, insomma, un po' maccheronico, però evidentemente riesce anche a parlare con i leader internazionali. E poi Clotilde dice: se rimandassimo a casa Renzi, faceva accenno alla trasmissione che dovrebbe finire appunto con venerdì, ma per questa stagione, poi ci risentiamo a settembre, va in vacanza la trasmissione, non io. Intanto aggiornamenti per chi viaggia. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi di nuovo con voi, guardavo ancora i vostri messaggi, potete continuare a scrivere i vostri commenti al 349-238-6666 per quanto riguarda gli sms. C'è nostra sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire con grande simpatia. Ma vi ricordo prima le notizie e poi tra pochissimo parleremo ancora delle ultime novità, se ci sono, del caso Yara. Ecofin, via libera agli obiettivi dell'Italia su crescita e riforme, però il ministro tedesco Schäuble dice che le riforme non siano una scusa e Renzi, che sottolinea, le idee ci salveranno. Errani, governatore dell'Emilia-Romagna, della regione Emilia-Romagna, condannato a un anno, dice sono innocente ma mi dimetto, condannato per falso ideologico nel caso Terre Emerse, il PD però dice ci ripensi. E poi Medio Oriente, venti di guerra a Gaza, Israele prepara l'attacco di terra, raid aerei sulla striscia, donne e bambini fra le vittime. Per quanto riguarda la politica italiana, giovedì le riforme in aula, Renzi dice avanti contro chi disfa, ci sarà la legge elettorale, la prossima settimana poi un incontro di nuovo è stato fissato tra PD e Movimento 5 Stelle. Del maltempo abbiamo parlato e forse torneremo a parlare sul Nord Italia, in particolare con l'esondazione del Seveso a Milano. I consumi ai minimi dal 2004, tagli in tavola e anche per quanto riguarda l'edilizia c'è una crisi sempre crescente. E poi Germania-Brasile, prima sfida stellare, questa sera però alle 22. Allora, torniamo sul caso del delitto Iara. Massimo Giuseppe Bossetti, l'uomo che sapete è arrestato, accusato dell'omicidio della ragazzina, è stato sentito per la prima volta oggi da Letizia Ruggeri, la PM bergamasca, che indaga appunto sulla morte di Iara Gambirasio. Interrogatorio che è durato 3 ore oggi. E Bossetti avrebbe proposto un'ipotesi alternativa, cioè avrebbe dato una sua versione alternativa a quella della procura per giustificare la presenza di queste macchie di sangue col suo DNA ne ha sui vestiti della tredicenne. Questo l'hanno detto i suoi avvocati Claudio Salvagni e Silvia Gazzetti. Allora saluto Claudio Salvagni che è in collegamento, grazie della disponibilità. Salvagni, buonasera. Grazie, buonasera a voi. Senta, allora lei intanto ha parlato in un'intervista o in televisione o in conferenza stampa, adesso non ricordo, di un'indagine pazzesca, l'ha definita un'indagine pazzesca, in che senso? Sì, confermo, è sotto gli occhi di tutti che questa è un'indagine veramente incredibile, sia per l'impiego di uomini che per l'impiego anche di mezzi economici. Gli inquirenti hanno veramente seguito una serie incredibile di piste e devo dare atto che l'indagine è stata condotta dalla procura con grande impegno. Certo che riconoscere alla procura grande impegno non significa fare un atto di fede, cioè la difesa deve mettere in campo tutte le proprie forze e tutte le possibilità che il diritto gli consente per difendere al meglio il proprio assistito. E oggi è stato appunto interrogato per 3 ore Bossetti, però c'era molta attesa perché almeno sulle cronache dei giornali, quelli cartacei, quindi non negli aggiornamenti dei siti, ma su quelli cartacei di oggi, per esempio prendo il Corriere della Sera, si parla di un particolare nervosismo di Bossetti ieri nella sua cella di isolamento, e che chiedeva costantemente alle guardie penitenziarie di poter dire alla PM, con la quale del resto era già fissato l'incontro di oggi, di poterle parlare chiedendo esplicitamente di raccontarle, di farle un nome, aveva un nome da fare, dice c'è una seconda persona di cui parlare, e quindi c'era grande attesa perché si diceva i titoli erano pronto a fare un altro nome. Io vorrei che giungesse a tutti come su questa vicenda si stia facendo veramente una speculazione incredibile quanto grande questa indagine. Quanto letto stamattina su Corriere.it è purtroppo, cioè meglio per fortuna per la difesa, destituito di ogni fondamento, veramente non ha nessuna rispondenza alla realtà. Io sono entrato in carcere, è stata la prima cosa che ho chiesto al Bossetti, ho trovato un signor Bossetti sereno, come ho detto spesso, provato per il regime carcerario particolarmente duro a cui è sottoposto, ma sereno e convinto. Quanto riportato non risponde alla verità ed è molto lontano dalla realtà. Bossetti ha chiesto questo interrogatorio sapendo di scendere, di calarsi nell'arena e confrontarsi col proprio accusatore. Ha risposto a tutte le domande e ha cercato di fornire, di dare una luce propria a quelli che sono gli indizi emersi giornalisticamente in questo periodo, perché ricordiamo che Bossetti può vedere la televisione e leggere i giornali. Questi indizi, che sono emersi in maniera anche sensazionalistica su alcuni canali televisivi non rispondono assolutamente alla verità. Quindi Bossetti si è, ripeto, al netto del DNA che rimane una, che rimane l'architrave dell'accusa, quindi al netto di questa, di questo indizio, Bossetti ha cercato di spiegare ogni suo spostamento, di dare agli inquirenti spunti di indagine, è stato, come si direbbe, collaborativo, con, perché crede nella giustizia e crede e spera che la verità possa emergere, pian piano possa emergere. Senta, a proposito di verità, Avvocato Salvagni, un obiettivo principale di oggi, di questa volontà di rispondere alla PM oggi di Bossetti, era quella di dare la sua spiegazione del perché il suo DNA potesse essere sui vestiti di Yara. Allora, ci può dire qualcosa in proposito? Allora, anche sul punto, allora, premesso che la difesa non può rivelare argomenti coperti da segreto istruttorio. Io sono un convinto assertore che i processi debbano essere fatti nelle aule di tribunale e quando c'è una segretezza delle indagini deve essere rispettata. Purtroppo la cronaca si scontra con questo limite invalicabile. Ciò premesso, il Bossetti ha voluto fornire delle spiegazioni relativamente a tutta una parte di indagine al netto del DNA, cioè del DNA non si è parlato, non è stato tema di indagine oggi, proprio perché verrà affrontato nei momenti e nelle sedi opportune, non oggi. Però mi sembra che voi legali, lei e la sua collega Salvagni, abbiate detto che va rifatto questo test sul DNA. Lei capisce che diversamente la difesa dovrebbe fare un atto di fede nei confronti dell'indagine svolta dalla procura di Bergamo. Io ritengo che la prova debba formarsi nel contraddittorio, nella dialettica processuale tra accusa e difesa, quindi ritengo e chiederemo verosimilmente che questa indagine venga rifatta con i nostri periti. Guardi Salvagni, le faccio soltanto sentire una parte della conferenza stampa della PM Letizia Ruggeri, che appunto indaga sul caso, del 20 giugno scorso, che commenta così, tra poco lo sentiamo, quanto ottenuto dai test fatti sul DNA trovato appunto sugli slip e sui leggings di Yara Gambirasio. Il DNA di Ignoto 1 era localizzato principalmente in una quantità abbondante sugli slip e sui leggings della ragazzina. Sono stati per così dire spremuti, sono stati estratti diversi campioni, alcuni migliori, altri meno, perché poi voi potete immaginare si tratta di un DNA che rappresenta come mistura insieme al DNA della vittima. Questo esame del DNA è stato ripetuto in 4 diversi laboratori e viene sempre quel DNA. Inizialmente è stato ripetuto, tra l'altro è stato fatto una volta, poi io non sono un biologo, ve lo potrebbero dire meglio loro, hanno imparato qualche cosa, loro lo fanno e poi lo confermano, prima di dare il risultato, di mettere la firma sulla relazione, lo fanno un'altra volta, poi un'altra volta, poi un'altra volta. Il RIS stesso l'ha fatto su diversi campioni, poi finché ha consegnato il risultato al mio ufficio. In termini di certezza, è sicuro che quel DNA è il DNA, che quel DNA presente sugli indumenti della bambina si configura come il DNA indicato nella tabella che loro mi hanno dato. Quindi questo è quello che diceva pochi giorni fa la PM Letizia Ruggeri, Avvocato Salvagni. Voi dite però non possiamo fare un atto di fede, per sicurezza noi lo rifacciamo. Una volta che dovesse essere comprovato nuovamente che quel DNA appartiene a Bossetti. Ribadisco, il DNA a parere di questa difesa resta un indizio. Un indizio che a mio giudizio non può essere sufficiente per una condanna di questo tipo, deve essere supportato da altri indizi, altrettanto importanti. E, io credo che la parola fine sul tema DNA potrà scriverla soltanto la Cassazione, e, diversamente ci si presenterebbero degli scenari inquietanti. Un delitto firmato con un DNA senza senza altri indizi, a mio giudizio non può essere attribuito incontrovertibilmente ad una persona. Non so se sono stato chiaro. Credo che occorrano altri indizi, credo che questi indizi debbano supportare il DNA. Ad oggi c'è questa chiamiamola firma? Allora, con tutto il rispetto per questa vicenda tristissima, con tutto il rispetto per la professionalità della Procura di Bergamo, la difesa vorrebbe interloquire nella formazione di questa prova. E quando anche questa prova fosse confermata, la difesa ritiene che da sola non sia sufficiente. Per questo motivo il Bossetti ha voluto parlare, per questo motivo parlare ora è molto più forte che parlare fra un tot di mesi, e per questo motivo ha dato spiegazione, ha cercato di smontare lui stesso gli indizi aggiuntivi alla prova del DNA. È chiaro, avvocato Claudio Salvagni. Io le stavo per fare una domanda che mi gira sempre nella testa, probabilmente una domanda ingenua o stupida, al di là di questo caso, avvocato Salvagni. Ma mi chiedo, un avvocato crede sempre ciecamente nell'innocenza del suo assistito, della sua assistita? O qualche volta si fa venire, non dico questo caso, e parliamo, lei avrà avuto mille altri casi e ne avrà ancora. Non è che l'avvocato non è uno sprovveduto che prende per oro colato quello che gli dice il proprio assistito. Certo è che l'esperienza fa soppesare, fa avere il polso della situazione. Io ho potuto guardare negli occhi e parlare lungamente col Bossetti. L'ho visto un uomo provato, l'ho visto un uomo sincero. Tante cose vanno a suo favore, tante zone d'ombra permangono in questa inchiesta. Per cui onestamente, quando mi ha dato dei riscontri, io mi sono sentito di credergli, infatti sin dal primo momento, e io quello che mi sta dicendo i rispetti. Avvocato, la sento male, ma qui tanto dovremmo chiudere. Io la ringrazio molto, le auguro buon lavoro, avvocato Claudio Salvagni. Grazie. Molto gentile, grazie a voi, buonasera. Grazie, buona serata. E adesso siamo riusciti a raggiungere l'assessore a Milano alla sicurezza, alla coesione sociale, polizia locale, protezione civile, volontariato del Comune di Milano, Marco Granelli. Buonasera, Granelli. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, gli ascoltatori e le ascoltatrici sanno, ne abbiamo parlato, che in particolare Milano ha subito il maltempo delle ultime ore, di ieri in particolare, si è risvegliata in varie parti, soprattutto nella zona nord, allagata d'acqua, e ci sono state polemiche perché un po' un rimpallo tra comune e regione sull'allerta che c'è stata, non c'è stata. Il sindaco Pisapia, l'abbiamo sentito prima, che ha detto la regione non ci ha avvertiti che c'era una forte criticità, e quindi però siamo intervenuti lo stesso per tempo, anche se i danni, Granelli, ci sono, no? Certo, i danni ci sono, è stata un'esondazione molto pesante, quella del Seveso. Non ho mai avuto modo, certo, di questo torrente, questo fiume Seveso, che ha esondato dalle 3 di stanotte, dalle 3 alle 10 fino alle 11 di stamattina, con un carico d'acqua significativo. Certamente noi come protezione civile, come sistema di emergenza, ci eravamo allertati già da ieri sera sulla base del meteo. Purtroppo questo è un torrente che si alza repentinamente, per cui è passato dal livello di 100 centimetri a quello di 300 nel giro di meno di un'ora. Senta, però a proposito del Seveso, si dice è l'ennesima esondazione, perché sono circa, pareva di sentire, 20 anni che si dovrebbe fare una specie di deviazione, di non so quali lavori, quali opere per metterlo in sicurezza. Però, questo è un torrente che nasce in Brianza, arriva a Milano e poi entra nella città. E non ha nessun controllo delle acque, del livello delle acque, perché ha solo un piccolo scolmatore che scarica poi nel Ticino, ma che copre solo una piccola parte. E noi con la nuova procedura di protezione civile abbiamo fatto in modo di attivare preventivamente sulla base del meteo questo canale scolmatore, ma è insufficiente. È necessario, a nostro giudizio, il sistema delle vasche di laminazione, che è il meccanismo utilizzato ormai in tutta Europa, e cioè di creare dei bacini che vengono riempiti d'acqua nel momento in cui c'è un carico elevato, e poi si risvuotano nel torrente nel momento in cui finita la piena. C'è su questo Regione Lombardia che l'ente ha questa responsabilità, ha fatto anche il caso uno studio, nello studio è nato una serie di progetti di queste sei vasche, però purtroppo ad oggi non c'è ancora, o meglio abbiamo raggiunto proprio un mese fa un accordo per una prima vasca, che adesso stanno facendo il progetto definitivo e dovremmo cominciare i lavori entro il 2015. Noi abbiamo messo 10-20 milioni per questo, la regione 10, quindi dovremmo essere arrivati verso la parola fine di questi 20-30 anni di attesa. Speriamo, assessore Granelli. Tra l'altro le dico anche come osservatrice, oggi ero a correre stamattina al Parco Lambro e anche il Lambro era parecchio uscito dalla sua sede, sui prati vicino agli alberi c'erano dei sentieri che non si potevano percorrere, perché quindi mi dica la questione dei danni in breve. Diceva il sindaco Pisapia, pagheremo i danni anche se la colpa è nel senso che questo fiume scarica acqua ma soprattutto fango che poi rimane, noi stiamo pulendo col sistema dell'azienda che raccoglie i rifiuti e pulisce le strade, stanno raccogliendo tutto il fango depositato, e il problema è che questo fango si è depositato anche nelle cantine, nei negozi, e quindi ci sono i danni per i cittadini. Noi adesso delibereremo, chiediamo un contributo ai cittadini che hanno avuto questi danni, perché riteniamo che comunque al di là delle decisioni, la necessità di agire e del fatto che questa è stata una piena veramente eccezionale, il cittadino non debba essere lui a pagare questa situazione, quindi quantomeno un contributo dell'amministrazione è necessario. Bene, grazie assessore Marco Granelli, buon lavoro allora. Altrettanto auguri a tutti voi. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi, le notizie vi ricordo molto brevemente, ve l'ho ricordato diverse volte anche questa sera, a partire dall'Ecofin, dal vertice dei ministri dell'economia e delle finanze, oggi hanno detto a Bruxelles sì agli obiettivi dell'Italia su crescita e riforme. Poi il Medio Oriente continua a salire la tensione con morti e feriti anche tra donne e bambini, tra poco ne parleremo. Il delitto di Yara, ne abbiamo appena parlato con l'avvocato di Bossetti che ha detto che è stato interrogato per 3 ore e ha spiegato perché il suo DNA era sugli indumenti della ragazzina, ma l'interrogazione è stato secretato. E poi per i mondiali alle 22 l'attesa partita Brasile-Germania. E fra le notizie anche la sentenza sul processo Mediatred che è arrivata oggi e di cui ci dà dettagli Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, sì, oggi pomeriggio alle 16, dopo 5 giorni di Camera di Consiglio, i giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Milano hanno emesso la sentenza per un processo che va avanti da tanto tempo ed è stata una sentenza che ha mandato assolti e in parte prescritti tutti quanti i 10 imputati di questo processo, a cominciare da Pier Silvio Berlusconi, figlio ovviamente di Silvio Berlusconi, da Fedele Confalonieri, Frank Agrama, produttore cinematografico. Si tratta di un processo, l'ultimo filone dei vari processi sulle presunte frodi fiscali nella compravendita dei diritti TV, lo stesso capitolo che aveva già portato esattamente un anno fa alla condanna definitiva per frode fiscale per Silvio Berlusconi. In questo caso invece i giudici hanno assolto Pier Silvio Berlusconi, hanno assolto Fedele Confalonieri, Frank Agrama e tutti quanti gli altri imputati, perché il fatto non costituisce reato, questa la formula, e perché in parte per l'annualità contestata del 2005 i fatti, quelli cioè di presunta frode fiscale, sarebbero stati già prescritti. Si tratta ovviamente di processi però diversi, cioè va detto che se l'impianto accusatorio contestato dalla Procura di Milano è lo stesso, diciamo, del processo Mediaset, si tratta di processi che hanno avuto iter differenti. In questo processo qui Silvio Berlusconi ne era già uscito in sede di udienza preliminare, quindi subito erano cadute per lui le accuse. Ci sono degli elementi tecnici differenti che sono stati valutati dai giudici, ad esempio in questo caso nel processo Mediatred è stato valutato il consolidato Mediaset come capogruppo delle società, mentre nel processo Mediaset si valutava la dichiarazione fiscale media, quindi un aspetto tecnico che però cambia radicalmente anche anche proprio la valutazione tecnica che i giudici avranno fatto e che tra 90 giorni spiegheranno nelle loro motivazioni. Di sicuro però gli avvocati, a cominciare da Niccolò Ghedini, che si esultava per la assoluzione di Pier Silvio Berlusconi, è ritornato con il pensiero, diciamo, alla condanna per il leader di Forza Italia, ricordando il loro ricorso a Strasburgo anche contro quella condanna che loro considerano ingiusta, e quindi insomma faceva la sua parte. Però sicuramente è una sentenza importante, perché appunto ha una prospettiva differente in modo radicale rispetto a quella Mediaset. Grazie Raffaella Calandra. Grazie a voi. Molto esauriente, e adesso vedevo ricambio tutto l'affetto di Mauro e Roberto dal testaccio di Roma, che non hanno la TV e ascoltano. Effetto noto perché sono degli intenditori, effettivamente ricambio anche il forte abbraccio. Ma adesso cambiamo argomento e parliamo di quello che sta succedendo in Medio Oriente, come fosse una novità, però c'è un acuirsi. Ciao Ugo Tramballi. Ciao, buonasera. Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore, esperto di Medio Oriente e non solo. Ugo, al di là di quello che sta succedendo, raid aerei, morti, tra i morti e i feriti ci sono donne e bambini, sappiamo che l'ultima causa è stato questo primo rapimento di 3 ragazzi israeliani da parte di integralisti palestinesi, e poi dopo per vendetta degli integralisti israeliani hanno ucciso un ragazzo palestinese, quindi insomma attacchi, vendette eccetera. Ma vogliamo, se riesci proprio sinteticamente, Ugo, a chi ascolta, sintetizzare le origini di questa guerra infinita? Beh, chiedi troppo alla vigilia di una semifinale di Coppa del Campionato del Mondo. Calma, ti lascio per tempo, non ti preoccupare. Io userei basta una parola sola, faida, cosa della quale noi in Italia siamo a conoscenza. Nel sud dell'Italia siamo a conoscenza. È sostanzialmente una faida quella fra i 3 ragazzi israeliani rapiti e uccisi e il ragazzo palestinese rapito e ucciso, come una faida anche quella di Hamas che lancia razzi, e che Israele, che in questa specie di battaglia con Machia, cercano tutti quanti di affermare appunto la loro potenza, di vendicare i loro morti. E alla fine sì, certo, è un conflitto fra due religioni, fra due etnie, fra due nazionalismi. Che si può dire fra due stati o ancora uno stato palestinese non c'è? Questo è il problema, forse. Dal punto strettamente legale del diritto internazionale no, lo stato palestinese non c'è, ha avuto degli importanti riconoscimenti delle Nazioni Unite, ma formalmente lo stato palestinese non c'è, esiste solo l'autonomia palestinese. Ugo, vuoi spiegare anche a chi ascolta che cos'è questa striscia di Gaza? Che tanti si immaginano un lembo di terra, ma non è ben chiaro. Per molti Gaza è il luogo per densità più abitato al mondo, ci vivono probabilmente quasi oramai 1,5 milioni di palestinesi, è controllato da Hamas, il movimento islamico, che ha deciso di fare comunque di condurre la sua guerra, indipendentemente da qualsiasi cosa succeda, comunque di condurre la sua guerra quasi personale contro Israele. Israele ha chiuso Gaza in una specie di gabbia. La soluzione sarebbe stata se Israele, per esempio, avesse concesso, diciamo, chiamiamoli palestinesi buoni, cioè palestinesi della Cisgiordania, cioè Abu Mazen, cioè l'autorità palestinese, cioè Fatah, cioè l'OLP, se avesse concesso qualche cosa per raggiungere un accordo di pace. Poiché i palestinesi buoni non sono riusciti a portare a casa un accordo di pace, e cito John Kerry, segretario di Stato americano, principalmente per colpa di Bibi Netanyahu, ai palestinesi non resta un'alternativa. Israeliano, ma i palestinesi ritengono di non avere più alternative di pace, e quindi Hamas prevale, e quindi prevale l'aspetto appunto militare. Ugo Tramballi, sei stato chiarissimo e molto sintetico, e ti lascio alla partita, perché so che al di là di queste cose importanti di cui ognuno si occupa, che riguardano il mondo e anche noi da vicino, ci sono altre cose per fortuna anche piacevoli, si spera. Ma se posso interromperti, c'è una continuità. Nel 1982, durante il mondiale della Spagna, Israele invadeva il Libano. Nel 2006, mentre l'Italia vinceva in Germania, c'era la guerra fra Israele e Hezbollah libanese, e oggi l'Italia non c'è, ma le guerre continuano. Non lo so, bisogna evitare i mondiali evidentemente. Comunque per oggi ci sono. Ciao Ugo Tramballi, grazie. Ciao Ugo. Ciao, grazie. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Notizie che riguardano, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, l'Ecofin di oggi, del vertice che si è stato a Bruxelles tra i ministri dell'economia e delle finanze, e poi l'avete sentito della situazione gravissima in Medio Oriente, poi gli sviluppi sul delitto di Yara con Bossetti, che è stato interrogato oggi per 3 ore, il processo Mediatrade assolti e prescritti per Silvio Berlusconi e Confalonieri, e poi per i mondiali tra poco c'è Brasile-Germania. Ma adesso lo spazio all'Europa. Europa 24 notte. E ne parliamo con Sergio Nava, naturalmente sta seguendo da tempo immemore quello che succede a livello europeo, i vari vertici. Oggi c'era un vertice informale che avevi anticipato ieri qui a Milano. Sì, no? Era il vertice dei ministri dell'interno, al centro del vertice l'immigrazione, chiaramente tema estremamente sensibile per l'Italia. Allora, per riassumere, perché poi abbiamo un'intervista importante, però fondamentalmente la presidenza italiana ha presentato il suo programma semestrale. C'è ovviamente la voglia, la disponibilità da parte dell'Europa, degli altri paesi, di aiutarci a far fronte agli sbarchi che ormai si susseguono a ritmi veramente molto, molto forti. Oggi un altro a Taranto in serata, 1353 persone. Sono sempre migliaia di persone, rifugiati spesso, e scappano dalle guerre che chiaramente vengono sulle nostre coste. E bisogna dire che forse c'è un po' meno disponibilità a farsi carico di questo flusso. La commissaria Malmström ha detto 8-9 paesi su 28 alla fine se ne fanno carico, tra quelli della sponda sud e quelli del nord, dove vanno, perché poi Gran Bretagna e Germania spesso sono poi i paesi di destinazione veri dei rifugiati. E poi c'è stato, e lo sentiamo subito in apertura di questa intervista che abbiamo realizzato oggi con la commissaria agli affari interni, commissaria europea Cecilia Malmström, c'è stato la vera linea divisoria tra un Alfano, ministro interno, diceva Frontex, l'agenzia europea, deve farsi carico, deve prendere in carico Mare Nostrum, e la Malmström che diceva Frontex ha un budget di 90 milioni, durerebbe 2 settimane di Mare Nostrum. Però, e ce lo spiega bene proprio nell'intervista che abbiamo realizzato con lei. Frontex is a small agency in the European Union. Frontex cannot today just take over Mare Nostrum. We don't have those means. Frontex è una piccola agenzia nell'Unione Europea. Non abbiamo i mezzi per rilevare l'operazione Mare Nostrum. Frontex con il suo budget potrebbe finanziare solo 2 settimane di Mare Nostrum. Ciò che Frontex può invece fare è lavorare col governo italiano per identificare esattamente i bisogni e progettare un'operazione più europea con il contributo degli Stati membri. Avremo per questo bisogno di maggiori risorse da parte degli Stati membri e sarà il governo italiano a dover quantificare quanti soldi occorrono per rafforzare Frontex. Il budget di Frontex è in totale di 90 milioni di euro l'anno, a copertura di tutte le frontiere del Sud Europa. Roma deve quindi identificare in primis i costi esatti di un'operazione che rappresenti in piccolo Mare Nostrum. A quel punto calcoleremo il nostro budget e ciò di cui abbiamo bisogno dai Paesi membri. Mi rendo conto che sia complicato per l'Italia calcolare con esattezza ciò di cui hai bisogno, ma è l'Italia che deve fare delle stime. In ogni caso, mi aspetto che questo lavoro sia finito il prima possibile. Oggi ne abbiamo discusso. Mi sembra ci sia la volontà da parte dei Paesi membri di contribuire, ma prima che mettano mano al portafoglio occorre avere delle stime esatte sui contributi necessari. L'Italia non è sola, non l'abbiamo mai abbandonata. Abbiamo già fornito a Roma quasi 500 milioni di euro nell'ultimo budget europeo e altri 500 ne arriveranno nell'arco dei prossimi 5 anni. Ci sono ancora alcuni milioni disponibili dal Fondo di Emergenza Europeo. Potremmo mobilizzarli, ma prima dobbiamo sapere quali sono i bisogni dell'Italia e come verranno usati questi soldi. Quindi, Sergio, vuol dire che l'Italia ancora non ha comunicato nel dettaglio quali sono le esigenze del nostro paese rispetto all'accoglienza, all'emergenza? Questo è un dettaglio abbastanza curioso, da un certo punto di vista anche spiegabile, nel senso che, come diceva la stessa Malmström, non è facile poi capire esattamente, dettagliare tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Però ricordiamo una cosa, cioè che proprio a maggio, e oggi l'ho ricordato quando l'ho incontrata, alla commissaria Malmström, aveva avuto una forte, accesissima discussione con lo stesso Alfano, perché la Malmström le diceva dovete dirci ciò di cui avete bisogno. Alfano diceva: se vuole prendo un aereo e vado là e glielo spiego. Ci fu questa, pochi forse lo ricordano, ma due mesi fa fu questa. E in realtà sembra un discorso che va avanti. È un po' un tormentone tempo. Questo, sì. Un tormentone, forse bisognerebbe, insomma, che ci fosse un pochino meno ipocrisia e si capisse bene come. Comunque la Malmström ha detto, e prima della entrata in vigore della prossima Commissione europea, cioè a novembre, dovrebbero avere finalmente questa quantificazione. Benissimo, un quadro definito. Speriamo. Grazie Sergio Nava. Grazie a voi. Ciao Sergio. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Intanto non so se sono i giocatori tedeschi che stanno cantando l'inno. L'inno, tu lo sì, vedi? Sì, sono proprio tedeschi quelli, Roberta. Siamo a fine mondiale, scusa, ti tiro le orecchie perché ancora non conosciamo bene i tedeschi. No, come le maglie bianche e rosse. Adesso, perché io con un occhio guardavo Sergio Nava, uno da sola nelle mani di Sergio Nava e mi ha dimenticato tutto il calcio che avevamo studiato insieme. Allora, caro, è tornato qui Ricci, senza quasi incolume, dal Brasile. Senti, che cosa possiamo anticipare di questa partita che è lì sul campo? Sì, è già presente, siamo al momento degli inni a Belo Horizonte, Brasile e Germania. Beh, direi che le novità più interessanti sono nella formazione del Brasile. Come sapete, manca il grande campione Neymar, infortunato, manca lo squalificato Thiago Silva. Ebbene, Felipão Scolari ha scelto di sostituire Neymar con un altro trequartista, quindi senza snaturare la squadra. Questo Bernard, che tra l'altro è il più basso della squadra, 1,66, potrebbe anche incunearsi. Sì, è un diversamente alto, più agile. Incunearsi nella difesa tedesca. Nella Germania di Löw invece squadra confermata con Klose al centro dell'attacco. Adesso per forza è un gioco, un rituale, se vuoi, trito e ritrito, però ci devi dire un po' così i rischi. Tu sai che io sono mettici la faccia, come dice Renzi, la faccia. Io gli sbaglio sempre i pronostici, a chi vuoi portare fortuna sbagliando il pronostico? Secondo me vince la Germania. Vince la Germania. Però il cuore dice Brasile, perché un pochino. Sergio è ancora lì che ridacchia, non è ancora uscito qui dallo studio, non l'abbiamo cacciato. Qual è il tuo pronostico? Tifo Germania. Beh, perché europeista, convinto. È rigorista. E vuole anche i rigori dopo, forza, magari, della Germania. Tre gol del Brasile alla faccia della spending review, del taglio dei costi, via. Beh, quindi insomma, sono tutti per la Germania, chi per i pronostici, chi proprio per il tifo. Vedremo come andrà a finire. Signori, vi ringrazio e vi saluto, e poi ci riaggiorniamo, Dario, domani, per vedere se avevi ragione o meno. E poi ci sentiamo pure le edizioni seriali di GR24. Ah, giusto, non giusto, lasciamo da una vittoria tedesca porti più flessibilità in Europa. Magari. Ma non lo so, sai, anzi potrebbe succedere il contrario. Grazie intanto a Sergio Nava e Dario Ricci, e noi ci sentiamo tra poco.